se rinasco, dolce abito nero, tu mi hai corroso come aceto. Sorso in strada, freddo impronte sul microfono, bruci paglia ad ogni pioggia, piangi non almeno in giorni tiepidi. Produci pietre ricche di vento e crema cola su mani di seta piena gronda di vino forte e fragole rosse come sangue, più vino che fragole, più vino che sangue. Hey! Ogni volta che rileggo mi chiedo quanto valga la mia pelle quanto nel 2005. Guarda la danza su, tacchi e pizzo nero, una boccata di fumo ed occhi scuri da tenere fisso. Quindi fisicità, facoltativo, utilizzarli, fai conto che farlo per me è grave, non sempre. Mi fingo e sconto, pago intero, nascondo l'istinto di gridarti addosso al letto. È movimento particolare, interessante, distingui smonti, congiunzioni e agganci versi. Rimbombano battiti, d'ansia che scansia, frasi fatte, chiacchiere, rumori e macchine. Donne che si intendono di pasta e nacchere, colori e maschere, rifugio per poter andarsene. Presi in volo due punti rottate da condividere, birre per scrivere schermi neri e lacci show. Gusti asciutti, bigi, lastre d'oro e smalti per superfici. Come felini con le mani in bocca, dacci un senso. Vorrei essere tragico, sto lavandomi dalle vergogne di questo tempo. Squarci su pelle viva. Come felini con le mani in bocca, dacci un senso. Vorrei essere tragico, sto lavandomi dalle vergogne di questo tempo. Squarci su pelle viva. Strato asciutto da un viaggio nel silenzio liquido. Ho visto inchiostro cadere, ho perso fiori d'agosto e parole rondini. Mobili stiamo cadendo dentro sino al fondo. Nello schifo spinto, merda, mondo, eccomi. Dio collassami, svegliami. Prendimi, ami o no, male che glielo no. Prendimi, che sto qui, affacciato agli angoli, affrancato come posta che non parte in posti non fa parte. Fuori affette, bestie, morsi a chi non riconosce. Baci altre domeniche a piangersi addosso. Abbracci per non stringermi, mentendomi, specchiati. Fretta chi non se ne rendi conto che ti sto aspettando. Mi sto specializzando ad essere per essere. Fatti sentire che il mio tempo è stanco, il mio ego è più che cinico. Fradici, rottami e drammi a quattro mani, vetra, gocce, acciaio, per collane di guerriere alieni. O senza mani, da solo con me stesso come il piano. Il mio è pavimento liscio. E lascia che sono tempi in cui ragioni più pazzo. Tu sfogati adesso, tu suonaci addosso. Come felini con le mani in bocca, dacci un senso. Vorrei essere tragico, sto lavandomi dalle vergogne di questo tempo. Squarci su pelle viva. Come felini con le mani in bocca, dacci un senso. Vorrei essere tragico, sto lavandomi dalle vergogne di questo tempo. Squarci su pelle viva.